Salva Danaio di Deborah Rosciani. Eccoci, benvenuti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. Oggi ritorniamo sul tema delle detrazioni fiscali sul recupero edilizio, le ristrutturazioni e il risparmio energetico. Torniamo sull'argomento perché l'agevolazione del 36% è stata prorogata per altri 2 anni dal governo, viaggia già in regime di proroga da molti anni e ne hanno approfittato tantissimi italiani, e vale per tutte le spese che saranno sostenute fino a dicembre del 2012, mentre per i lavori finalizzati al risparmio energetico siamo invece quasi alla scadenza perché lo sconto termina alla fine di quest'anno. Lunedì scorso il Sole 24 Ore è tornato anche il giornale appunto sull'argomento per cercare di rifare il punto su questi incentivi che, come dicevo, hanno davvero fatto il boom fra le famiglie italiane. Abbiamo un dato che è stato divulgato qualche giorno fa dall'Agenzia delle Entrate, secondo il quale alla fine dello scorso mese di novembre le ristrutturazioni edilizie avviate nel corso del 2009 erano aumentate in termini percentuali del 16%. In 11 mesi sono arrivate all'Agenzia delle Entrate qualcosa come 410.000 dichiarazioni di inizio lavori, nello stesso periodo dell'anno precedente erano state 353.000. Quindi 2009 anno record per i lavori di manutenzione straordinaria degli immobili. L'ultimo record era stato segnato nel 2007, quando in totale erano state calcolate 402.811 ristrutturazioni in tutta Italia. Un ultimo dato, tanto per togliervi qualche curiosità, sono i lombardi a guidare la classifica dei cittadini che hanno approfittato del bonus fiscale per rimettere a posto casa. Nei primi 11 mesi dello scorso anno a chiedere l'agevolazione sono stati 95.000, pari al 23% del totale nazionale. E allora, visto che vi interessa così tanto, come si fa a chiedere queste detrazioni? Che tempi bisogna rispettare? Sono detrazioni cumulabili? Quali sono i tetti di spesa massimi? Oggi vi mettiamo a disposizione due dei massimi esperti in materia del Sole 24 Ore. Buongiorno a Marco Zandonà, direttore dell'ufficio fiscalità edilizia appunto dell'ANCE, l'associazione dei costruttori. Buongiorno Zandonà e bentornato a Salva Danaio. Buongiorno a tutti. E poi abbiamo Luca De Stefani, un altro amico di Salva Danaio, dottore commercialista, un altro esperto su queste tematiche ed è una delle firme appunto su queste, sulle novità che peraltro riguardano in particolar modo gli sgravi per il risparmio energetico, novità che sono in vigore dal 4 gennaio, ne ha scritto appunto lunedì sul Sole 24 Ore. De Stefani, bentornato anche a lei. Buongiorno a tutti. Allora, in previsione di questa puntata sulla quale avevamo avvisato i nostri ascoltatori già da qualche giorno, io ho già qualche mail da leggere e qualche caso concreto come quelli che ci presentate di solito, li leggeremo naturalmente tra pochissimo, queste indicazioni, queste mail dei nostri ascoltatori, ma voi potete continuare, potete anche scriverci e chiamarci. Chiamarci all'800 24 0024, scriverci al 349 238 6666. Potete anche scrivere all'indirizzo di Salva Danaio, @radio24.it. Non vi do quasi mai l'indirizzo della nostra trasmissione, ma anche questa è una modalità con la quale vi rivolgete a noi molto frequentemente, per cui torno a ricordarvi anche questo modo appunto di interagire con la nostra redazione. Prima di entrare nel vivo del nostro programma su questo argomento, andiamo alla borsa rapidamente. Una borsa che era partita stamattina ancora una volta con il turbo perché tutti gli indici avevano dei rialzi abbastanza sostenuti, oltre mezzo punto percentuale. A guidare l'Europa era Milano, che è arrivata a guadagnare quasi un punto sul FTSE MIB. Adesso stanno tutti gli indici del vecchio continente riducendo i guadagni, abbiamo un più 0,26%, viaggiano in percentuale identica Parigi e Francoforte. Londra più 0,57%, mantiene ancora il mezzo punto, lo mantiene ancora Milano, ma anche Milano appunto ha ridotto un po' i suoi guadagni, più 0,65% sul FTSE MIB, mercato che oggi reagisce positivamente alle indicazioni che sono state date ieri sera dalla Federal Reserve, dalla Banca Centrale Americana, nel Beige Book, che ha parlato di una ripresa del sentiero della crescita in maniera modesta, prudente, ma in ogni caso qualche segnale la Federal Reserve ha detto appunto di intravederlo, lo ha confermato almeno. Oggi abbiamo però altri appuntamenti importanti, la BCE, la Banca Centrale Europea, è cominciata la riunione del direttivo a Francoforte, si decide sui tassi, probabilmente non verrà presa nessuna decisione, i tassi rimarranno all'1%. Nell'Eurozona nel frattempo l'euro sul dollaro aspetta questa comunicazione alle 13.45 euro italiana, quotando 1.45. Petrolio ieri sotto gli $80, oggi di nuovo al di sopra di questa soglia. A Milano il mercato premia Tenaris più 2.44, Bulgari più 1.93%. Tenaris ha avuto un miglioramento di giudizio da parte degli analisti di UBS. Mediaset più 1.91, Eni segue il petrolio e cresce di 1.5%. L'automatica più 1.43, Pirelli bene con un rialzo dell'1.33, Atlantia più 1.30, in discesa dell'1.22% Snam Rete Gas, UbiBanca meno 0.9, Monte dei Paschi meno 0.8, Fondiaria meno 0.43, Geox meno 0.36%. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi e ritorniamo sugli incentivi fiscali per rimettere a posto la nostra abitazione. Tornano anche quest'anno le detrazioni per il recupero edilizio. Se da un lato la finanziaria ha prorogato lo sconto del 36% per le spese sostenute entro la fine del 2012, resta aperta anche la possibilità di fruire della detrazione del 55% per i lavori sul risparmio energetico, ma soltanto per le spese effettuate entro il 31 dicembre di quest'anno. Per le detrazioni del 55%, la prima scadenza da tenere a mente è il 31 marzo e riguarda i lavori iniziati prima del 31 dicembre 2009 e proseguiti nel 2010. Entro quella data, infatti, bisognerà comunicare all'Agenzia delle Entrate le spese sostenute nel 2009. Il beneficio su cui calcolare la detrazione del 55% spetta fino a un tetto massimo di spesa di 181.000 euro ed è da suddividere in 5 rate annuali. La detrazione del 36% sulle ristrutturazioni si sconta invece in 10 anni per un limite di spesa di 48.000 euro, limite che dal 1 ottobre 2006 si riferisce alla singola unità immobiliare e non più ad ogni persona fisica che abbia sostenuto le spese. Tuttavia, i contribuenti di età superiore a 75 e 80 anni possono suddividere la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 rate annuali. 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande. Vedo già che ne stanno arrivando parecchie, come sempre centralini in fibrillazione, soprattutto quando scegliamo temi che vi interessano in maniera così concreta, come accade, speriamo, almeno per la gran parte delle nostre trasmissioni. Allora io comincerei con Luca De Stefani, perché è l'autore, come vi dicevo, di questo articolo apparso sul Sole 24 Ore lunedì scorso e che aveva come tema, come oggetto, le novità che riguardano la comunicazione degli interventi sul risparmio energetico che va presentata all'Agenzia delle Entrate. Allora De Stefani, da quest'anno questa comunicazione si può fare in via telematica dal 4 gennaio appunto. Certo, si tratta di un nuovo adempimento che deve essere avviato entro il 31 marzo del 2010 e riguarda tutte le spese sostenute nel 2009 che per lavori che hanno continuato, sono continuati anche nel 2010 e che eventualmente continueranno anche nei prossimi anni. Quindi riguarda solo i lavori per il risparmio energetico che sono a cavallo dell'anno. Se ad esempio un contribuente ha sostenuto le spese per il risparmio energetico tutte quante nel 2009, non dovrà fare nessun tipo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate, mentre dovrà fare sempre la comunicazione e l'invio dei documenti all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Quindi è una novità relativa, nel senso che sostanzialmente la procedura per la comunicazione appunto rimane quella standardizzata. L'unica precisazione è stata fatta, perché questo è un tema che genera sempre molta confusione, ne abbiamo avuta dimostrazione anche nelle nostre altre trasmissioni su questo argomento. Il tema è chi fa i lavori appunto a cavallo dell'anno. Certamente. Tanto per precisarlo ancora. Che riguarda le spese per il 2009, nel caso in cui le abbia continuate negli anni successivi, e riguarda anche gli interventi e le spese che sosterrò nel 2010, se continuerò ad effettuare questi lavori che ho iniziato appunto negli anni precedenti, nel 2011 e negli anni successivi. De Stefani, però questo sconto fiscale del 55% per i lavori finalizzati al risparmio energetico scade quest'anno, quindi attenzione a chi prevede di fare dei lavori a cavallo fra il 2010 e il 2011, perché poi lì magari i problemi potrebbero essere diversi e non poter avere il diritto a tutto l'incentivo. Sì, Così immagino. Devo ricordarmi di effettuare i bonifici entro la fine di quest'anno, quindi entro la fine del 2010, perché se faccio i bonifici bancari, che sono quelli che valgono, perché ricordiamo che vale il principio di cassa, se faccio appunto questi pagamenti nel 2011 non sono pagamenti agevolati al 55%. Mm-hmm. Poi spiegheremo ai nostri ascoltatori interessati a questo punto che notizie vanno riportate nella comunicazione, questa che va presentata entro il 31 marzo per lavori relativi alla ristrutturazione della casa che hanno come finalità il risparmio energetico, appunto la comunicazione telematica degli interventi dell'Agenzia delle Entrate per lavori appunto che si stanno facendo ma che si sono iniziati l'anno scorso, quindi lavori a cavallo dell'anno. Andrei però anche alle novità sul 36%, questo incentivo fiscale che invece ha, Marco Zandonà, una storia molto più consolidata nel nostro paese. Ogni tanto qualche intervento è stato fatto, ma tutto sommato vive il regime di proroga da oltre 10 anni, e adesso abbiamo l'opportunità appunto di continuare a rimettere a posto le nostre case. Io dovrò farlo prima o poi, so che lei ha già cominciato, almeno per un paio d'anni, almeno fino al 2012. Al di là, diciamo, dell'allungamento di questa opportunità, ci sono anche altre novità che sono state introdotte dal governo e che vanno comunicate ai nostri ascoltatori che stanno magari rimettendo a posto la loro abitazione? Ma novità importanti sotto il profilo sostanziale non ci sono. Volevo solo ricordare che collegata al 36% c'è anche questa volta non una proroga ma un'assunzione a regime anche dell'IVA al 10% per questi interventi. Quindi sostanzialmente per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che io faccio sulle abitazioni non c'è più un problema anche di applicazione di un'IVA ridotta, perché adesso l'IVA, dopo che l'Unione Europea ci ha permesso ovviamente l'assunzione a regime, è diventata del 10% permanentemente, quindi il 36% dovrà essere prorogato dopo il 2012, però abbiamo già un'IVA al 10%. Mm-hmm. L'altra novità è magari è stato un po' più che modificato, puntualizzato l'altro obbligo connesso al 36%, cioè oltre alla comunicazione preventiva all'inizio dei lavori da mandare al centro operativo di Pescara per raccomandata e non in via telematica, è stato precisato quali sono le ipotesi in cui c'è anche l'obbligo di comunicazione alla ASL sul rispetto delle regole di sicurezza che va fatto sempre per raccomandata. Ci possiamo fare qualche esempio, esatto, quando è necessario fare anche questa comunicazione? C'è stata una modifica normativa che è entrata in vigore nel 2008 e in cui viene previsto che l'obbligo di comunicazione alla ASL preventiva sempre all'inizio dei lavori, e nell'ipotesi in cui ci sia un cantiere, quindi dei lavori in cui è prevista la presenza di più imprese anche non contemporanea, oppure cantieri che inizialmente non c'era questa pluralità di impresa, ma per effetto di varianti, quindi di ulteriori lavori che si vanno ad aggiungere, rendano obbligatoria comunque la comunicazione anche alla ASL, che è prevista sempre a pena di decadenza. Stavo pensando che però la questione dei lavori a cavallo dell'anno riguarda il regime del 55%, così come quello del 36%, perché anche in quel caso si possono iniziare dei lavori a dicembre per poi concluderli a gennaio. In questo caso però non viene precisato nulla a proposito della comunicazione appunto che deve essere fatta proprio per comunicare all'Agenzia delle Entrate la questione del lavoro fatto a cavallo dell'anno. Zandonà. Per il 36% non c'è anche qui nessuna particolarità, non c'è un'ulteriore comunicazione. Per i lavori a cavallo d'anno io devo fare sempre una comunicazione prima dell'inizio dei lavori, sì, e poi ovviamente la detrazione mi spetta in quota parte anno per anno. Perfetto. L'unica specifica è che il limite massimo di 48.000 euro è dato dalla somma dei lavori che io faccio nei due anni, e quindi devo sommarli. De Stefani, invece per quello che riguarda il regime del 55%, anche in questo caso, a prescindere dalla comunicazione telematica, la restituzione da parte del fisco di quanto ci spetta in termini di incentivo viene fatta per come la definisce appunto Zandonà, per quota parte, cioè a seconda di quello che abbiamo speso in un anno piuttosto che in un altro? Sì, certamente. Vale sempre il principio di cassa, quindi per tutti i pagamenti effettuati nel 2009 posso iniziare a detrarre già nella dichiarazione dei redditi che farò a giugno di quest'anno, quindi nell'unico nel 730 relativo al 2009. Quindi questo è quanto significa, come dire, il principio di cassa che ci diceva prima. Certo, certamente. Stavo pensando allora che cosa serve all'Agenzia delle Entrate avere questa comunicazione telematica, ecco perché serve sapere che il lavoro viene fatto a cavallo dell'anno, perché è stata introdotta questa novità? Ma per motivi di controllo principalmente, di confronto dei dati, perché ricordiamo sempre che le banche, nel momento in cui ricevono questi bonifici, questi ordini di bonifici relativi a 36% al 55%, comunicano i dati all'Agenzia delle Entrate. Quindi anche per effettuare dei controlli incrociati. Ecco che hanno introdotto questa nuova comunicazione. Benissimo. Allora, io comincerei anche a sentire qualche ascoltatore. Mi ricordo benissimo di aver detto anche che ho delle mail da leggere. L'ho promesso anche agli ascoltatori che ci hanno scritto, che avete dato spazio anche ai loro casi. Intanto però sentire Giuseppe da Rimini e poi rispondiamo al suo caso subito dopo la nostra prima piccola pausa. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno, grazie di essere stato richiamato. Grazie a lei. Io ho un caso abbastanza unico, non lo so, ho due alloggi sui quali vorrei fare la sostituzione della caldaia, passare dalla caldaia tradizionale alla caldaia a condensazione. A condensazione, sì. Ecco, io vorrei programmare questi lavori nell'arco di alcuni anni, anche perché non mi limiterei a fare poi il discorso della caldaia, ma il rifacimento dell'impianto elettrico, il pavimento, cioè da fare delle manutenzioni un pochettino pesanti. Se io quest'anno vado da un rivenditore, compro due caldaie, le pago con un bonifico. Però non le installo, le metto lì in attesa di installarle. Ecco, questo posso fluire delle del 55%, lo posso già cavalcare. Guarda che bella domanda, Giuseppe. Allora, attenda là, ci prendiamo una pausa, ci facciamo pensare un po' De Stefani e Zandonà e poi li rispondiamo. Sono già pronti anche Claudio da Roma e Nicola da Milano. Vi aspetto di nuovo con noi a tra pochissimo. Salva Danaio. Eccoci ritrovati in diretta. Allora, questa mattina siamo ritornati sulle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni, per il recupero edilizio, per il risparmio energetico. Ricordiamo che abbiamo due tipi di incentivo nel nostro paese: l'agevolazione del 36% per gli interventi di manutenzione straordinaria, un'agevolazione che è stata prorogata dal governo per altri due anni, mentre termina quest'anno l'incentivo del 55% per tutti quei lavori finalizzati al risparmio energetico. Allora, ci sono molte domande da parte vostra, due ospiti questa mattina: Marco Zandonà, direttore dell'ufficio fiscalità edilizia dell'ANCE, e Luca De Stefani, dottore commercialista, entrambi due delle firme più importanti del Sole 24 Ore su questi argomenti. Prima di andare al caso di Giuseppe da Rimini, che deve fare per due alloggi lavori di manutenzione piuttosto pesante, ci ha detto, ma dice non li farò adesso, però vorrei beneficiare dell'incentivo del 55% per il risparmio energetico da fruire attraverso l'acquisto di due caldaie a condensazione. Allora, prima di chiedergli se può fare questo acquisto e metterlo da parte per beneficiare appunto dell'incentivo, c'è un altro ascoltatore, Roberto da Voghera, che chiede: potete fare un esempio numerico riguardante la detrazione del 55%? Allora adesso metto in difficoltà De Stefani, gli faccio fare il commercialista, visto che lo fa tutto il giorno, sempre alle prese con i conti, prendendo proprio magari come spunto il caso di Giuseppe da Rimini. De Stefani, ammettendo che questo che le due caldaie gli vengano a costare 3.000 euro, come si spalma l'incentivo fiscale, come può farne richiesta, appunto soprattutto quanto gli rientra in tasca, in quanti anni può vedersi restituito appunto questo incentivo? Certo, allora la normativa innanzitutto non prevede che i lavori debbano essere terminati entro il 31 dicembre del 2010, anche se l'agevolazione termina il 31 dicembre del 2010. Sì, ma però bisognerà vedere quando sono cominciati. Possono cominciare entro fine anno, ma anche direi il prossimo anno. Se lui però mi fa il bonifico bancario entro quest'anno, valendo il principio di cassa, ecco che non vi sono problemi, lui può tranquillamente iniziare a detrarsi il 55% di 3.000 euro già da quest'anno. Quindi non deve dimostrare che l'acquisto è stato fatto proprio finalizzato anche alla ristrutturazione, e se lui poi non la facesse? Comunque poi ci sono delle sanzioni, perché comunque deve inviare all'Enea la comunicazione di entro 90 giorni dalla fine dei lavori e poi, siccome si tratta di un lavoro a cavallo dell'anno, deve comunicare all'Agenzia delle Entrate questa nuova comunicazione entro il 31 marzo del 2011. Se poi i lavori nel 2011, 2012, 2013 non vengono effettuati e quindi lui non invia questa documentazione, poi sicuramente vi saranno dei controlli e vi saranno delle sanzioni. Quindi insomma, Giuseppe, prima di avventurarsi nell'acquisto delle due caldaie, se non intende poi attivare il loro funzionamento nel giro di breve tempo, è bene che faccia tutte le riflessioni del caso, insomma, su questa, sulla richiesta dell'incentivo. Poi se le vuole comprare, se le compra lo stesso, naturalmente, De Stefani. Sì, certamente. Poi, per quanto riguarda la ripartizione dell'incentivo, il 55% di 3.000 euro può essere ripartito in 5 anni, ricordiamolo, quindi inizierà nel 2010 e terminerà nel 2014. Quindi praticamente poco più di 1.500 euro che si restituiranno, che Giuseppe appunto vedrà restituite nelle sue tasche nel giro di 5 anni, e questo per accontentare appunto Roberto che ci chiedeva di fare un esempio numerico. Poi la normativa, ricordiamolo, prevede un'altra questione importante. Se inizio a detrarmi già da subito, anche se non ho effettuato la fine dei lavori o comunque la comunicazione all'Enea degli investimenti effettuati, posso iniziare a detrarre da subito solo se faccio una dichiarazione dove dichiaro che i lavori non sono terminati e la conservo. Quindi è un semplice pezzo di carta, certo, una dichiarazione. Una precauzione che è bene prendere. Benissimo. Certo. Allora, Zandonà, Emanuele da Roma ci chiede, volevo sapere se i lavori me li faccio da solo, questo incentivo fiscale ne possiamo beneficiare ugualmente? Sicuramente, però nei limiti del costo dei materiali. Si fa un lavoro in economia, si dice tecnicamente, e l'agevolazione del 36 è limitata all'acquisto dei materiali, sempre chiaramente con bonifici bancari, il pagamento e chiaramente la fattura corrispondente. Un altro ascoltatore invece, qui comincio a leggere un paio di mail che ci sono arrivate questa mattina. Gianni ci chiede, ho ristrutturato il mio appartamento nel 2008 e ho avuto la possibilità appunto di accedere rispettivamente sia agli sgravi fiscali del 36% e del 55%. Vorrei sapere se ho ancora la possibilità di fruire degli incentivi per l'acquisto di mobili, lo ricordiamo, il 20% su un acquisto di 10.000 euro, se non ricordo male, effettuato lo scorso anno e se è stato prorogato anche nel 2010. Allora, su questa ultima cosa le posso rispondere io, si sta discutendo di una proroga, mi pare che le risorse a disposizione siano molto scarse, ma non ne sappiamo ancora molto. Zandonà, invece, visto che lei l'ho disturbata anche per altre trasmissioni su questo argomento, fa ancora in tempo a chiedere l'incentivo fiscale per l'acquisto del nuovo arredamento, l'ascoltatore, che ha ristrutturato nel 2008? In questo momento no, perché anche lì conta il principio di cassa, quindi il momento di pagamento con bonifico bancario. Se non è stato fatto l'acquisto entro il 31 dicembre 2009 e il relativo pagamento, attualmente la legge non è più in vigore e quindi non può acquistare i mobili oggi 14 gennaio del 2010. Ma lui se li avesse già acquistati? Se li avesse già acquistati e pagati con bonifico bancario, sicuramente sì. Sicuramente. Il 31 dicembre doveva fare il bonifico bancario. In questi casi l'agevolazione si applica. Benissimo, quindi Gianni... Se no, deve aspettare la proroga se ci sarà, e quindi se ci sarà ovviamente potrà acquistarli dopo. Un altro ascoltatore, poi vado anche agli ascoltatori che ci stanno chiamando, ma volevo dare lettura anche delle mail che ci arrivano, perché sennò poveri questi qua non li accontento mai. Allora, il prossimo mese, ci spiega Fabrizio da Savona, devo rifare il bagno, stavo pensando se lo sconto del 36% vale solo per l'impianto idraulico e manodopera o nel suo complesso anche per i sanitari, rubinetterie e piastrelle. Zandonà, si può rifare il bagno integralmente, tutto ciò che attiene alla spesa? Sì, a condizione che faccio integralmente il bagno, quindi vi faccio anche le tubature e quindi in questi casi l'intervento è di manutenzione straordinaria. Benissimo. Però ai fini urbanistici ci vuole una DIA. In questi casi il 36% si applica sull'acquisto di tutto, manodopera, materiali, sanitari e anche materie prime. Certo, la DIA, che ricordiamo, la dichiarazione di inizio lavori, di inizio attività. Esatto, sì. Che va presentata? Si presenta al comune, e dopo 30 giorni dalla presentazione si può dar luogo all'inizio dei lavori. Benissimo. Claudio da Roma, ritorniamo agli interventi finalizzati al risparmio energetico. Claudio, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno a lei. La mia domanda è la seguente. Io ho iniziato l'installazione di pannelli fotovoltaici nell'anno passato, che terminerà nei prossimi mesi. E per un importo complessivo di 120.000 euro circa per un impianto da 16 kW. Sì. La domanda è questa: avendo utilizzando gli incentivi del GSE, volevo sapere se si può anche partecipare alla detrazione del 55%. Se sono cumulabili. De Stefani, le arrivano anche domande di questo tipo? Certo, certo. Purtroppo non sono cumulabili i due incentivi. Qual è il primo a cui faceva riferimento Claudio? Ce lo può spiegare? Quello relativo alla tariffa incentivante delle GSE e quindi la possibilità di avere dei contributi per il fatto di produrre energia elettrica tramite il fotovoltaico. Mm-hmm. Diciamo che questo tipo di incentivo, che è il classico incentivo per il fotovoltaico, non è cumulabile con quello del 36%, perché ricordiamo che uno può scegliere tra l'incentivo della tariffa incentivante, appunto, e quello del 36%, e quindi o scelgo uno o scelgo l'altro. Con il 55% comunque non ci siamo, perché si tratta, la devoluzione del 55% sia solamente per i pannelli solari che producono acqua calda e non energia elettrica. Benissimo, 800 24 00 24, continuate pure ancora a prenotare i vostri interventi, ce ne sono davvero tanti e ci sono insomma i casi più disparati, e segno che, come esattamente indicano le statistiche dell'Agenzia delle Entrate, c'è molta vivacità, per fortuna almeno c'è una parte insomma dell'economia che è in grande difficoltà, ma ce n'è una parte che funziona, insomma, se riusciamo ancora a rimettere mano alle nostre abitazioni, in qualche maniera riusciamo anche a trainare un po' il PIL italiano. Buone notizie, insomma, ci fa piacere anche che riusciate a fare questo tipo di lavori, magari proprio anche con il vantaggio fiscale. Nicola da Milano, benvenuto. Grazie perché mi fate intervenire. Senti, io ho bisogno di una cortesia. Ho iniziato i lavori il 2007. E dato che per motivi economici non ho finito ancora, per quanto tempo posso spalmarli e per quanto tempo è valida la mia comunicazione iniziale? Ah, ecco, sì. Allora, dunque, Nicola, credo che lei faccia riferimento a lavori di manutenzione che hanno bisogno dell'incentivo del 36%? O ci sono anche lavori per il risparmio energetico? Ammettendo appunto che sia l'incentivo quello più noto del nostro paese. Zandonà, abbiamo detto che intanto il governo ha prorogato, quindi fino al 2012 teoricamente il nostro ascoltatore ha tempo per ultimare i suoi lavori, ma la dichiarazione di inizio attività fino a quanto ha validità? Dura 3 anni, quindi io entro 3 anni devo ultimare i lavori o chiedere una proroga della DIA. Quindi non è che deve fare niente di che, Nicola, insomma. No, se durano più di 3 anni ovviamente dovrò chiedere un nuovo titolo abilitativo dell'intervento. Benissimo, quindi rivolgersi insomma al comune e banalmente prorogare anche questa documentazione. Pier Giovanni dalla provincia di Macerata, buongiorno. Sì, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo chiedere questo, cioè io faccio parte dello stesso nucleo familiare di mia madre, sì, proprietaria di diversi locali. Io sono lavoratore autonomo, se faccio la ristrutturazione io posso beneficiare di questi incentivi? Benissimo, tra l'altro Luca De Stefani, vengo a lei perché mi pare che abbia risposto ad una domanda di un lettore del Sole 24 Ore, proprio era un caso simile, se non ricordo male, lo vedo qua dalla pagina di lunedì del Sole 24 Ore, sì. Le spese pagate dal figlio, si chiama, avete intitolato questa lettera, per cui si può anche, come dire, si possono forse avvicinare i due casi, no? Il figlio può beneficiare della detrazione e a quali condizioni? Certo, allora i figli, i familiari conviventi con il proprietario o il titolare del diritto reale dell'immobile possono sicuramente beneficiare della detrazione fiscale sia del 36% che del 55%. È necessario però che siano loro che effettuino effettivamente la spesa e quindi che facciano il bonifico vero e proprio e che siano conviventi già dall'inizio dei lavori. Quindi Pier Giovanni rientra in questo caso? Certo, rientra, però non vorrei, perché parlava di locali, non vorrei fossero immobili commerciali in questo caso. Abbiamo quindi ancora l'ascoltatore in linea, Carmelo. Pier Giovanni è ancora con noi. Pier Giovanni? Sì, vorrei chiarire, siccome sono lavoratore autonomo e mia madre possiede sia un appartamento di civile abitazione sia dei locali come ufficio, no? E a me interesserebbe. Vale la stessa cosa sia per l'abitazione che per l'ufficio eventualmente se ristrutturassi? Pier Giovanni, le faccio rispondere da Luca De Stefani dopo aver sentito quello che sta succedendo sulle strade italiane, quindi visto che ci ha fatto la precisazione potremmo essere anche più precisi nella risposta, tra poco. Salva Danaio. Luca De Stefani, allora, questo lavoratore autonomo che vorrebbe rimettere in sesto un po' alcuni locali di proprietà della mamma e alcuni, da quello che ho capito, sono proprio ad uso commerciale, sono destinati ad essere degli uffici, quindi può beneficiare in ogni caso dell'incentivo? Certo, non vi sono problemi, però per quanto riguarda l'abitazione potrà usufruire sia del 36% che eventualmente del 55%, ovviamente per interventi diversi. Quindi se faccio un intervento di ristrutturazione nell'abitazione posso avere il 36%, se faccio un intervento per il risparmio energetico posso avere il 55%, mentre per i locali commerciali si potrà usufruire solo dell'eventuale 55% per i lavori di risparmio energetico non del 36%. Visto che si sta parlando adesso, come dire, di nuclei familiari, c'è un ascoltatore che chiede: la casa dove abito io è intestata a mia moglie convivente, posso però detrarre io le spese di ristrutturazione, De Stefani? Sì, se il bonifico l'ha effettuato lui, sicuramente sì, e se era convivente all'inizio dei lavori. Benissimo. Allora, tra l'altro c'è un altro ascoltatore che invece, scusate la domanda stupida, la sostituzione della caldaia rientra nelle agevolazioni? Guardi che è proprio forse uno degli interventi più frequenti, la sostituzione appunto della caldaia per l'acquisto per esempio di quelle nuove ad alta efficienza energetica, quelle a condensazione, per cui sì, sicuramente rientra nelle agevolazioni, può addirittura beneficiare di uno sgravio del 55% sulla spesa. Andiamo a Roma. No, non so se è un ascoltatore, Gaia, l'amministratore di condominio, che chiede come ripartire i benefici della detrazione. Non ho il nome. Pronto? Sì, pronto. Mi scusi, ma non mi hanno scritto il suo nome. Sono Massimo da Roma. Massimo, buongiorno, benvenuto da noi. Grazie. Una domanda specifica per quanto riguarda la detrazione fiscale. Io ho eseguito nel corso del 2009 alcune ristrutturazioni di impianti termici, quindi con sostituzione di caldaia a condensazione. Sì. Con accordi presi con i fornitori abbiamo fatto un piano di frazionamento del pagamento delle somme, ovviamente, della fornitura, spalmato sia sul 2009 che sul 2010. Sì. E nel 2009 abbiamo effettuato una parte del pagamento ed alcuni condomini hanno pagato l'intera somma a loro addebitata. E volevo domandare se era corretto che alcuni condomini possono nel 2009 detrarre il loro totale pagato e gli altri invece fermarlo fra 2009 e 2010. Una domanda assolutamente pertinente. Come si deve comportare qui, Zandona? Posso venire da lei, un amministratore di condominio? Sì, beh, in questi casi, nell'ipotesi di lavori condominiali, bisogna fare riferimento a quanto ha pagato l'amministratore all'impresa, perché sicuramente i condomini pagheranno l'amministratore e l'amministratore poi paga l'impresa. Allora, in questi casi non conta la quota che ha pagato direttamente il singolo condomino, ma quanto ha pagato l'amministratore. In questi casi poi l'amministratore fa, sulla base della tabella millesimale, una tabella di riparto tra i singoli condomini e quindi si deve fare la proporzione tra quanto ha effettivamente pagato il condominio con bonifico bancario, quindi se paga un po' ha pagato un parte nel 2009 e parte pagherà nel 2010, lui adesso in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi dei singoli condomini rilascerà un attestato con riferimento però alla quota millesimale, ma riferita ai pagamenti fatti dall'amministratore, quindi i condomini che hanno pagato l'intera cifra purtroppo dovranno aspettare che l'amministratore abbia pagato nel 2010 la seconda quota. Quindi insomma magari si sono tolti il pensiero di questo onere, di questa spesa, però per ottenere appunto, per vedere il ritorno indietro del beneficio fiscale devono aspettare i tempi regolari appunto che rispettano tutti gli altri. Allora, peraltro anche questo è un tema affrontato abbastanza con grande precisione dal Sole 24 Ore in una pagina appunto di qualche settimana fa. Magari io adesso non ho la data di questo articolo che ho sotto gli occhi perché ho una fotocopia, però l'ascoltatore che ci ha chiamato poco fa, qualora volesse scriverci, all'indirizzo di salvadanaio@radio24.it, gli mando questo articolo con tutti gli obblighi che praticamente attiene in capo anche l'amministratore di condominio in situazioni di questo tipo. Allora, De Stefani, ritorno da lei perché c'è un ascoltatore che ci chiede se si possono ottenere gli incentivi fiscali anche pagando, adesso non so esattamente che cosa intenda, con assegno non trasferibile. Allora qua ribadiamo un po' l'importanza invece dell'effettuazione del bonifico ai fini dell'erogazione dell'incentivo fiscale? Certo, gli incentivi sono validi solo se si effettuano i pagamenti tramite bonifico bancario o postale. Può essere fatto anche un bonifico online. L'importante è che nel bonifico vi sia la causale dell'incentivo, quindi ad esempio per il 55% detrazione, 55% IRPEF o IRES in base alla legge 296/296 del 2006 e deve essere indicato il codice fiscale del beneficiario dell'incentivo, quindi del contribuente, e il codice fiscale dell'impresa che ha eseguito i lavori. Mm. E quindi, insomma, se arriva da noi un capomastro, un'impresa che ci chiede modalità di pagamento differenti, stiamo attenti perché altrimenti il nostro incentivo sfuma, giusto? Non è possibile. Non è assolutamente possibile. Allora, veramente state scrivendo e chiamandoci in tanti questa mattina, ci fa molto piacere. Allora io andrei adesso a Sergio da Mantova. Buongiorno ancora una volta, una questione simile a quelle di cui abbiamo già parlato, cioè lavori che naturalmente a volte sono molto complessi, riguardano edifici anche molto grandi, per cui è chiaro che non si esauriscono nel giro di pochi mesi. Sergio da Mantova, buongiorno. Buongiorno a voi, ho una domanda di questo tipo. Io ho avviato una pratica per il 36% e ho già accumulato 42.000 euro di pagamenti, sì, effettuati con bonifico. E volevo la mia domanda era, i 48.000 euro, sì, sono il tetto massimo ed è un tetto unico per a caso di due anni? Nel 2010, sì, io finirò nel 2010 il lavoro. No, allora, sì. Con mia moglie. Ho capito, Sergio. Allora, Zandonà, qui è una cosa che abbiamo precisato, se non ricordo male bene anche nella nostra scheda, il limite dei 48.000 euro si applica all'unità immobiliare. Si limita alla singola unità immobiliare, quindi se il radioascoltatore ha speso già 42.000 euro, avrà diritto ancora al 36% calcolato su 8.000 euro, esatto, se è una singola 6.000, unità immobiliare, sì. Se invece sono più unità immobiliari, il limite è con riferimento a ciascuna unità immobiliare. Quindi se anche i lavori, come dire, Sergio, sì, esatto, se anche i lavori vengono fatti in più anni non è che si ha diritto a 48.000 euro come base appunto imponibile per l'applicazione del 36% per un anno piuttosto che un altro. Benissimo, allora speriamo abbiamo chiarito anche questo dubbio. Andiamo adesso a Graziano dalla provincia di Venezia, che pure chiede altri chiarimenti sui tetti massimi di spesa, se non sbaglio, giusto? Sì, sicuramente, per una DIA il massimo possibile, e se posso, avendo i lavori da fare su palazzina con più unità immobiliari di unico proprietario, è estensibile a tutta la proprietà o no? Ah, ecco, allora è certo, perché giustamente Graziano dice, insomma, ho una palazzina con più unità immobiliari, per cui dice l'unità immobiliare è considerata la palazzina o tutti gli appartamenti? Zandonà, penso che possano essere considerati. Allora, se faccio interventi sulle parti comuni dell'edificio, il limite di 48.000 euro è riferito a ciascuna unità, quindi se ho un edificio con 10 unità immobiliari moltiplicherò 48.000 per 10. Mm-hmm. Per i lavori interni ovviamente il limite è autonomo, spetta 48.000 euro per ogni unità, quindi si sommano in questi casi i lavori sulle parti comuni esterni e i lavori sulle singole unità immobiliari. Un'altra considerazione molto intelligente è quella di Antonio dalla provincia di Monza sulla capienza del reddito per poter ottenere gli incentivi, o l'uno o l'altro. In questo caso, Antonio, lei vorrebbe avere precisazioni sul 55%, mi pare, no? Esatto. Sì. Sì, praticamente, magari sembrerà banale la domanda, il discorso era questo: se nell'arco dei 5 anni in cui io posso recuperare il famoso 55%, sì, se in uno di quegli anni non riesco a raggiungere la quota parte, cosa succede? L'eccedenza che non riesco a pagare la perdo o la recupero in qualche modo? De Stefani, mi venga in aiuto lei, adesso io non capisco, cosa vuol dire non riesce a raggiungere la quota parte? In pratica, sì, se supponiamo ha sostenuto spese per 10.000 euro, il 55% era pari quindi a 5.500 euro, adesso per gli interventi sostenuti nel 2009 e nel 2010 la ripartizione di questa detrazione di 5.500 euro può essere fatta in 5 anni, quindi abbiamo 1.100 euro di detrazione all'anno. Se ad esempio nel 2011 avrà un IRPEF da pagare pari a 500 euro, non la pagherà perché sono i 1.100 euro che può detrarre. Però gli rimangono indietro, certo, 700 euro, e quelli? 600 euro, quelli vengono persi, purtroppo. Purtroppo, Antonio, quindi ricordiamo che per gli interventi pagati nel 2008 era possibile scegliere una ripartizione che poteva andare da 3 anni a 10 anni. Quindi nel caso del nostro contribuente poteva essere scelta la ripartizione più lunga, e certo, quei 5.500 euro venivano integralmente recuperati. E invece adesso abbiamo appunto questo limite fissato a 5. L'ultima domanda è quella di Simone da Milano, perché ancora qua insistiamo un po' sui sistemi di pagamento. Simone, rapidissimo perché sto chiudendo. Velocissimo.